Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi parla del fumetto militante nelle sue varie forme, nelle sue varie battaglie. E cominciamo con l'intervista di Michela e Leonora a Mario Rivelli, conosciuto nel mondo del fumetto come Otto Gabos, nonché, oltre che essere un fumettista di valore internazionale, anche docente alla nostra Accademia Bolognese. Otto Gabos ci racconterà appunto del suo impegno rispetto alle mine antiuomo in specifico e del rapporto arte, fumetto e impegno sociale in generale. Dopo lo stacchetto musicale, la parola a Mario Rivelli in arte Otto Gabos. Perché il nome Otto Gabos? È semplice. All'anagrafe sono Mario. Da bambino mi chiamavano Mariotto, Mariottino, Mariotto. A un certo punto, alla fine del liceo, mi ero innamorato follemente della secessione viennese e degli scrittori che in qualche maniera avevano raccontato quel periodo di fine impero, quindi Joseph Roth, Schnitzler, compagnia cantante. Di conseguenza, quando ho iniziato a disegnare sul serio, quando ho fatto questa scelta, volevo inventarmi un'altra identità che avesse questa affinità con questa cultura mitteleuropea, per cui Mario, Mariotto, Otto, e poi sono andato a cercarmi un cognome di vaga ascendenza ungherese, allora ho deciso fra Gabor e Gabos, ma la S di Gabor si spera della R di Gabor, e allora è stato Otto Gabos, e da allora mi è rimasto. È stata qualche anno fa, ho fatto due biografie proprio sugli autori della secessione, Klimt e Schillecker. Allora Mario, tu sei stato ospite della chiamata alle arti di febbraio, ospitata da Alessandro Bergonzoni, e in quell'occasione e da Palazzo Pepoli, ma ospiti anche di Alessandro Bergonzoni, che in quella sede esponeva il tavolo delle trattative, no? Ricordiamolo, questo tavolo sorretto da queste gambe procurate ad Alessandro da Emergency, quindi protesi e di gambe tra l'altro utilizzate in quegli scenari di guerra. E tu nel corso di questo pomeriggio stupendo hai disegnato in progress, no? Queste gambe, quindi hai realizzato disegni di queste protesi. Che progetto hai rispetto a questi disegni fatti nel corso di quel pomeriggio? Guarda, l'idea sarebbe, se si riesce a realizzare, sentire sicuramente Emergency, sarebbe necessaria un'indagine, però è iniziata una riflessione mia, non solo mia, che poi dopo questi ultimi giorni diventata straordinariamente attuale, il discorso delle mine antiuomo, messi al bando dalla Convenzione di Ottawa nel 97, hanno aderito quanti 165 paesi, ma adesso le stanno ripristinando, ad esempio in Ucraina c'è stata la domanda a interrompere questo perché l'uso che ne fa la Russia, che è tra i paesi non firmatari insieme alla Cina, Israele, Stati Uniti, le due Coree, se non ricordo male, c'era che un uso asimmetrico, di conseguenza ha fatto domanda per il ripristino di questo, domanda alla quale, se non erro, si sono associate anche la Polonia, le Repubbliche Baltiche, ossia la Finlandia, le nazioni che confinano con la Russia. Questa è un'escalation terribile, anche perché le mine antiuomo sono qualcosa veramente di incredibilmente subdolo, fabbricarle a volte a forma di giocattolo, in modo che colpiscono i civili, che devono creare il panico, il terrore, non muoverti, far vivere una condizione di assoluto spavento. Tra l'altro anche tutta la pratica per esaminare i terreni, tanto sono state messe senza una mappatura precisa, ma a volte anche a casa, per cui diventa difficilissimo individuare dove, richiede anni. Intanto leggo che viene rinvenuta qualche mina antiuomo nella zona dei Balcani, quando ci sono state le guerre balcaniche degli anni 90, per cui è una cosa veramente indecente, assolutamente assurdo che ci siano ancora e che qualcuno le abbia addirittura inventate. Queste protesi, mi piacerebbe riportarle, fare un lavoro proprio di ricerca di aneddoti, raccontare delle storie, mi piacerebbe magari farle in un formato importante, perché penso che alla fine la, se devi parlare di guerra e di violenza e lo vuoi fare come magari come un atto politico diretto, non in altre maniere, deve essere urticante, quindi non deve essere una cosa gradevole, ma deve essere gradevole, deve colpire nel profondo e farti male. Quindi l'intento è quello: fai male, pensi, vedi, magari fai anche qualche altro tipo di azione. Mario, io ti volevo chiedere, perché il fumetto è stato, anche per quanto riguarda, spostiamoci un attimo su un altro versante, sul conflitto israelo-palestinese, è stato veicolo, anche grazie per esempio a fumettisti come Joe Sacco, Art Spiegelman, di denuncia di quanto stesse avvenendo in quelle aree, ma il fumetto è stato anche però un mezzo di propaganda. Quando parliamo per esempio della Russia, ho letto che spesso anche il graphic novel è stato utilizzato come mezzo di propaganda, no? Quindi un'espressione artistica che è stata, come dire, su ambo i lati, il lato della denuncia, sì, ma anche sul lato della diffusione di una propaganda. E attualmente in Italia come sta messo il fumetto da questo punto di vista? Essenzialmente sono degli autori che hanno sempre lavorato in questo senso, chiaramente il nostro amico e collega dell'Accademia Gianluca Costantini, che lui è da veramente tanto tempo che ha fatto fumetti su argomenti, ha lavorato sulla Libia, con la Francesca Mannocchi per esempio, ha lavorato sulla Cina, ha lavorato in prima linea con tutto ciò veramente da tantissimi anni per quanto riguarda Cufia, che era un'associazione in Palestina che si occupava di costruire ospedali, o meno, per cui il suo impegno politico è lungo di lungo corso. Un altro autore che lavora veramente da tantissimo tempo su tutto ciò è Claudio Calia. Claudio Calia è un grandissimo impegno civile, lui ha iniziato veramente nei primi anni 90 con una denuncia su Porto Marghera, stato l'inquinamento, ha fatto un dossier TAV, ha fatto un libro su Don Gallo, lui ha fatto dei laboratori addirittura in Iraq, in Tunisia, con questa popolazione, è andato lì a portare il fumetto, per usare il fumetto in certe parti del mondo in cui magari è meno sentito. C'è anche poi l'altro bestseller di Piero Calcare, Coban Calling, anche questo qua, dato là, proprio in Kurdistan, nella zona confine fra Turchia e Siria, a intervistare, a lavorare con le popolazioni curdiche, spesso dimenticati, anzi quasi sempre dimenticati e quasi sempre massacrati. C'è il nostro ex studente bravissimo, Majid Bita, ex studente iraniano, che con il suo libro formidabile Nato in Iran racconta uno spaccato, appunto, della vita in Iran. Quindi insomma ci sono diversi autori che hanno fatto, il loro approccio è sempre stato lungo. Non dimentichiamoci già dagli anni 90 fino agli 90 due quaderni di Igor, quaderni ucraini, sì, e quaderni russi, che anche questi sono stati importanti. Igor ha vissuto là in Ucraina per un po' di tempo e lì ha indagato con le persone, e si era ancora lontani dalla guerra attuale, indagato nel passato quando c'era stata ai tempi di Stalin la soppressione dei culacchi, portando effettivamente alla carestia indotta e altro, e intervistava delle persone che appunto erano lì. E quindi stessa cosa era il periodo dell'assassino dell'Apo di Tosca, che è anche lì andato a intervistare delle persone, per cui alla fine un impegno civile, un impegno su certe cose tanti autori ce l'hanno. Però riguardo un discorso di fumetto, propaganda o meno, è estendibile un po' come è sempre stato anche il mondo dell'arte, l'arte di, sì, propaganda è sempre esistita, quindi non è una novità di adesso, ma è sempre esistita, per cui l'arte, essendo un linguaggio, dipende come lo usi, certo. Il dramma è quello, quindi non è una novità, ma abbiamo tutta l'arte di propaganda di vari regimi che è sempre stata diffusa e diventa uno strumento didattico e pedagogico in certi casi formidabile. Oh, no. Questa è Ghernicaco Arbola, che è un canto in omaggio alla tragedia, martirio di Guernica, dipinto da Picasso, di cui si faceva riferimento. Quindi la parola torna a Otto Gabus. Mario, vorrei soffermarmi su quello che è il tuo insegnamento in accademia e su quella che è la tua, su quello che è il tuo interesse continuo nel tentare e spesso riuscendoci di valorizzare il lavoro degli studenti. Poc'anzi citavi il libro Nato in Iran di Majid Bita. Questa pubblicazione ha avuto poi un grande riscontro in Francia. Vorrei che tu ti soffermassi e che raccontassi ai nostri ascoltatori la nascita di questo libro, che tu stesso hai definito splendido e io sono in assoluto accordo, ma soprattutto importante per i suoi contenuti e per ciò che ci racconta attraverso appunto il disegno e il fumetto. Beh, il libro nasce soprattutto anche col confronto nel biennio di linguaggi del fumetto, che appunto è la diploma magistrale che abbiamo noi, quindi col dialogo continuo con i docenti Edo Chieregato, Andrea Bruno, Gianluca Costantini, che l'hanno avuto, sapendo che Majid lui sostanzialmente veniva anche dall'illustrazione, ha questo segno molto artistico, molto vicino anche a, apparentemente all'incisione per l'uso di materiali molto complessi. Sì, perché ha praticato l'incisione ha praticato, infatti sono una coppia di artisti, sua moglie sì. Anya Gashgai, un'eccellentissima illustratrice, più volte in mostra con noi, ha fatto diversi libri, per cui sono una coppia veramente formidabile. E questo libro nasce appunto dalla riflessione: qual è, essendo il fumetto un linguaggio, puoi raccontare sostanzialmente delle storie, dipende quali storie. Siamo in un momento in cui uno degli argomenti tendenze in tutta la narrativa letteraria e non solo è la tendenza all'autofiction, quindi da mettere se stessi in prima linea. Vedi, da diversi anni Campiello e gli Strega alla fine stanno sempre a narrazioni di autofiction, che possono essere più o meno alte, più o meno interessanti, dipende da dove è la nostra linea ad ombra, come riusciamo a individuarla, come riusciamo a raccontarla. Nel caso di Majid, lui attingeva chiaramente da un vissuto che già alla base era più robusto, più formidabile, magari di un vissuto che uno vive nella propria cameretta, con le proprie paturnie, le proprie mestizie, e quindi se voleva di quello, ha avuto un grande coraggio, perché chiaramente non è semplice raccontare in questo modo ciò che ha raccontato. Per cui libri del genere sono quei libri che, quel termine che si usa molto spesso, molto sgradevole, però in questo caso appropriato, un libro necessario. Ecco. Certo. Ma veramente necessario, non quella frase che uno mette così giusto per. Quindi ce ne vorrebbe, perché magari uno entra in uno spaccato, come a volte succede in certi film che vengono da questi registi che in qualche modo riescono a esprimere una dissidenza di certi paesi. Il frutto del mio visto da poco, ambientato appunto in Iran, che era molto molto forte, premiato a Cannes, tramite il non può tornare. Ci vuole coraggio, non tutti ce l'hanno, e la riflessione qual è, anche l'impatto politico, e come artista, come ti vedi, quanto sei disposto a rischiare, soprattutto magari puoi avere o non avere nelle tue corde espressive questo afflato politico, magari certi ce l'hanno diretti, viene fuori Picasso con Guernica, altri magari ce l'hanno in maniera più sotterranea, vengono fuori le incisioni di Goya sulle atrocità della guerra, dell'invasione napoleonica, altri ancora la mettono sotto altro tipo di forme, che ne so, l'azione politica con l'arte povera, come è successa con Pino Pascali in scena, per tutto il gruppo dell'arte povera, quindi insomma è abbastanza articolato, non tutti ce l'hanno nelle corde. Quello che noi facciamo, ad esempio il nostro corso come illustrazione, è cercare di mettere gli studenti e prendere coscienza che la loro identità è raccontare delle storie. Abbiamo portato avanti un discorso già dall'anno passato in relazione ai fatti di Gaza e alle problematiche israeliano-palestinesi, e tu ricorderai che vi erano, come vi sono, posizioni molto diverse, e a questo proposito proposito, con l'evolversi purtroppo drammatico, tragico dei fatti di Gaza, cosa pensi tu adesso di quelle che sono le relazioni fra le istituzioni culturali italiane e quelle israeliane? No, io penso in generale a monte, io sono contro il boicottaggio, qualsiasi boicottaggio culturale è un danno. Sarei stato anche contro il boicottaggio culturale di cui è stata vittima la Russia tempo fa, mi ricordo episodi sgradevoli al Salone del Libro o altro, addirittura il discorso di Paolo Nodi con le sue lezioni. Certo, episodi russe, scandalosi, direi. Sono cose scandalose. La cultura è proprio lo strumento, è quel ponte che crea legami, che mantiene vivo la dignità laddove questa qua non c'è più, per cui boicottare la cultura è sempre una cosa perdente, anzi va anche cementata, perché soprattutto in ambito culturale sono tante voci dissidenti e bisogna dare ascolto a queste, non sopprimerle in nome di un atteggiamento totale e univoco. E quindi in generale io sono contro, anzi dare l'opinione e sentire anche delle voci che magari sono silenziose, almeno fanno venire fuori, perché è una situazione veramente deleteria e tragica. Chiaramente dal punto di vista politico non penso che ci sia persona al mondo adesso che faccia il tifo per quello che sta succedendo, almeno da una parte, è una cosa che indegna, va assolutamente finita, conclusa, non so con quali esiti, perché a me mi sembra che la situazione sia probabilmente, se non irreversibile, quasi quello che è successo, non si può più mettere una pezza, e sinceramente là veramente c'è lo sgomento rispetto a un qualcosa che si fa veramente fatica a mettere a fuoco, a dare una risposta sensata, a trovare una soluzione efficace, da dove ormai non c'è più niente, c'è tabula rasa, la tabula rasa la lasci così o la riedifichi. Mi ricordo quando ero andato a Berlino negli anni 90, c'era Potsdamer Platz, che era il fiore all'occhiello della Berlino, era una spianata in cui non c'era niente, attraversava il muro era rotto e c'era un chioschetto che vendeva kebab, era il deserto, poi è stata ricostruita perché c'era un'altra visione del mondo, là andando a Gaza tutta la striscia, ma è il deserto, di cosa fai? È la domanda che ci dobbiamo porre tutti continuamente, una cosa che deve finire, ma come deve finire? Quando, subito, e siamo là veramente impotenti, non possono essere né presidi nelle strade né nelle manifestazioni, è un rimbalzo che lì non arriva, ci vuole altro e sinceramente non so come. Sì, una cosa molto bella potrebbe essere che a un certo punto tutti i volenterosi del mondo si fermassero a una determinata ora, 5 minuti, 3 minuti, non facessero assolutamente nulla. E sarebbe un eco mostruoso in tutto il mondo, sarebbe un segnale molto forte, di grandissima coesione, piuttosto che tanti piccolissime azioni in diverse parti. Ci vuole un atto veramente mondiale, che tutto il mondo è contro questi scempi qui. Consideriamo che attualmente ci sono 56 conflitti in atto, è la percentuale più alta dal dopoguerra, 56, di certi nessuno ne parla, nessuno parla del Corno d'Africa, nessuno parla del Sahel, nessuno parla di Myanmar, quindi ce ne sono 56 creando profughi, morti, ed è una cosa terrificante, veramente c'è un'escalation di violenza gratuita con tornaconti del mercato delle armi e quant'altro, che è uno scandalo. You build the big guns, you build the dead planes, you build the bombs, you hide behind walls, you hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You'd have never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand, you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Of old, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, I see through the water. Ma l'impegno sociale può esprimersi in diversi modi nei fumetti. Per esempio, un altro fronte di impegno è quello della battaglia contro il cambiamento climatico. E allora Alessa Iotti, in arte Alterales, viene intervistata in questo audio che abbiamo tratto dalla rete. Ascoltiamo. Sul tuo account Instagram, Alterales, appunto, tu scrivi che fai attivismo a colpi di fumetto. Nel tuo lavoro racconti tanti aspetti della crisi climatica, della lotta per la preservazione dell'ambiente. Com'è nato questo interesse per il clima, per l'ambiente, e come poi l'hai portato nel tuo lavoro? Beh, diciamo che ho sviluppato un interesse per la biologia, la scienza alle superiori, perché ho frequentato il liceo scientifico, nonostante io continuamente disegnassi, insomma, anche sui banchi di scuola, e questo non era molto apprezzato alle superiori, ma questo mi ha portato appunto ad avere un occhio scientifico per il mondo, che poi successivamente in modo autonomo ho utilizzato per capire cosa stava succedendo al clima, e poi ho deciso di usare questa mia capacità di disegnare proprio per poter condividere con un altro linguaggio che non fosse quello scientifico il problema del clima e dell'ambiente che stiamo vivendo. È complicato, è complesso, e quindi mi è sembrato il modo più inclusivo per poterne parlare. Abbiamo parlato del tuo lavoro sui social, ma in realtà sei anche l'autrice di un libro, La crisi climatica esiste, non è un unicorno, edito da Mondadori. È un libro qui racconti i cambiamenti climatici, soprattutto ai più giovani. È un libro rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 10 e i 14 anni, giusto? Cosa troviamo in questo libro? Come è nato questo libro? Allora, intanto sì, in teoria sullo scaffale lo troviamo tra i 10 e i 14 anni, in pratica è dagli 0 ai 100. Sono in realtà i primi passi per chi ancora non ha idea di cosa stia succedendo e ha voglia di entrare un pochino nel tema in modo delicato e gentile, perché ovviamente si può approfondire all'infinito il tema della crisi climatica. È importante, secondo me, che tutte e tutti lo sappiano, quindi io, come dicevi anche tu, ho iniziato sui social a condividerlo, perché era il mio mezzo di comunicazione. Dopodiché la Mondadori mi ha detto: facciamolo diventare un libro. E questo mi ha spaventata inizialmente, perché io non ho mai pubblicato un libro, ma in realtà poi è stata una grandissima opportunità, perché mi ha permesso di andare nelle scuole e in tantissime occasioni proprio di poter parlare con le persone e di quindi continuare il mio attivismo rendendolo anche il mio lavoro, e davvero poter discutere con le persone, confrontarmi con le persone, che credo sia la cosa più utile da fare in questo momento, sentire l'opinione di chi vive la crisi climatica, di ragazzini che ci sono nati in mezzo alla crisi climatica e a cui spesso non viene raccontato praticamente nulla, e quindi tutto questo può davvero spaventare. Nel libro quindi si trovano un po' di informazioni scientifiche di cos'è che sta accadendo e perché sta succedendo, quindi dai fenomeni estremi, dalle piogge estreme agli incendi, e cosa possiamo fare noi da oggi, da subito, per cercare di insomma dare il nostro supporto alla causa. Insomma, è un'ottima idea regalo per i ragazzi dai 10 ai 14 anni, i ragazzi e le ragazze, ma anche per i papà e le mamme, per gli zii e le zie, insomma, per chi si vuole fare un'idea. Magari lo si legge insieme, lo si inizia a leggere insieme proprio a Natale sotto l'albero. È una buona idea per avvicinarsi a un tema, quello della crisi climatica, lo dicevi tu, molto complesso, che però ci riguarda tutti e che quindi in un modo o nell'altro, chi più chi meno, dobbiamo conoscere. Parlavi della possibilità di avere un riscontro nel tuo lavoro nelle scuole, e allora ti chiedo: che riscontri hai avuto? I più giovani hanno una consapevolezza di quello che sta accadendo? Se sì, in che modo vivono la crisi climatica? In che modo, se hanno delle istanze, insomma, diverse dalle nostre, che sono, siamo un po' più grandi, io più di te, rispetto a questo problema? Allora, quando vado nelle scuole è molto interessante perché ho due feedback, quello degli insegnanti e delle insegnanti e quello dei ragazzi, degli studenti. E, allora, i ragazzi sono abbastanza spaventati perché comunque di fianco a casa loro appunto succedono dei disastri e questo rende la vita complicata, tanto che un ragazzo mi aveva disegnato per esempio il suo campo da calcio che era diventato un lago e quindi si era inventato che da quel giorno si andava a pescare e si cambiava sport, non si andava più a giocare a calcio. E di base le istanze che portano loro è la volontà di voler raggiungere i propri sogni. Si sentono un po' come se gli si stesse rubando, ed è tutto vero, la possibilità di avere dei sogni, cioè di guardare al futuro e dire io vorrei fare questo, quello, quell'altro. Non è più così scontato, cioè non è più davvero sembra possibile perché tutto quello che accade intorno è molto più grande di loro. E quindi poterne parlare con me, che non sono spaventata, e questo libro non spaventa, anzi ti dà la forza di dire se la scienza ci dice che c'è una soluzione, allora possiamo non andare tutti nel panico, anzi dobbiamo impegnarci per portarci a casa la partita. E questo diciamo che insomma non è che banalizza la cosa, però toglie un po' di ansia, e l'ecoansia sappiamo tutti che si sta dilagando tra i più giovani, e la trasforma in volontà di cambiare le cose per raggiungere questi sogni. Quindi io diciamo che voglio dare la voglia di rafforzare ancora di più il bisogno di concretizzare i propri sogni, e per farlo bisogna risolvere i guai che non hanno fatto loro, poveri, ma che ci troviamo tutti a dover risolvere. Mentre i professori, è un'altra cosa interessante, che trovano in questo libro uno strumento, perché anche loro, che sia un maestro delle elementari o una prof delle medie, spesso non hanno le competenze, giustamente perché non sono delle tematiche che si studiano o che comunque fanno parte di quello che dovrebbe essere insegnato a scuola. E questo libro è uno strumento, ti dà proprio le basi, ci sono tantissimi link dove poter approfondire. E molti prof mi ringraziano, mi dicono grazie perché non sapevo dove sbattere la testa per spiegare ai ragazzi che ci fanno delle domande e noi non sappiamo esattamente cosa dire. Let's go! Summer 2023! Mi piace climate change, evviva climate change! Piace molto scottarmi e voglio che tutta la terra si scaldi sempre di più. 416 ppm, solo se aumenta non sto ben. Sono di anidride carbonica, è troppo simpatica è mia amica. La biodiversità è stupida, ci sono troppi pesci da ricordare. Facciamo gli oceani riscaldare, non c'è più niente da studiare. Cosa me ne frega a me se in Burkina Faso a luglio è troppo caldo? C'ho l'aria condizionata, una coca zero e pasta con leopardo. Mi piace climate change, evviva climate change.